Redua, per favore, non farmi ridere. E basta di piangere perché non è tua casa. E non è tuo caso di piangere. E perché sta piangendo? Perché ha pianto Ariel, perché sta piangendo. Allora, e basta di piangere.